Bene, allora cominciate con osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. Quindi osservate come sono messe le punte dei piedi, quale è più in fuori, invece quale piede più dritto. In genere il piede della gamba portante sta più dritto, potete anche pensarci dopo. E poi osservate come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, e come appoggia il bacino a destra e a sinistra. E se non capite che parte appoggia di più, provate molto lentamente con le gambe allungate a sollevare il lato destro, il lato sinistro del bacino, dondolandolo qualche millimetro da una parte all'altra, in modo da sentire da che parte va di più e da che parte va di meno. E cercando di memorizzare la parte dalla quale si gira con più facilità, in modo che dopo, quando lavoriamo, sapete da che parte si gira meglio. Dopodiché vi fermate e osservate l'appoggio di tutto il corpo, partendo dal coccige e salendo fino alla testa. Qui ai bambini potete far immaginare le impronte di colore che lasciano sul pavimento, se è molto denso, se appena lo sfiorano, se non lasciano impronta, oppure le impronte che lascerebbero nella sabbia, nella neve, questo vi potete spiegare voi. E osservate dal coccige fino alla testa come è messa la colonna vertebrale. Come appoggia il coccige, come è messo l'osso sacro, quanto dista la zona lombare, la cintura dal pavimento. Come appoggiano le vertebre toraciche, le costole, le scapole. E poi come è messo il collo, la testa, e come tenete la bocca, come è messo il mento, se è vicino alla gola, lontano. E infine osservate come sono messe le spalle, quale è più sollevata da terra, quale cade più indietro verso il pavimento, e di conseguenza come appoggiate le braccia, il destro o il sinistro, le mani, le dita. E poi, ultima cosa, passate ad osservare il respiro. Come respirate e se respirate. Se respirate con l'addome, con il torace, con entrambi. Ok, adesso lentamente vi girate su un fianco e poi vi sedete. Ok, allora adesso lascio scegliere voi. Preferite che faccia il movimento lasciando che ognuno di voi lo faccio dalla parte dove ruota meglio, o preferite che facciamo tutte uguali, che vi risulta più facile anche per qua, come volete. Ma partiamo dal più facile, così ci rendiamo anche conto di, okay, di come fanno i bambini. Allora, adesso vi sedete con le gambe piegate. Quindi ginocchia verso torace e piedi larghi come il bacino con la pianta appoggiata per terra. Ok. Adesso muovete le ginocchia in modo che vadano dalla parte dove vi è più facile ruotare. Proviamo tutte e due, Lella, o siamo sì, già se parte sapete, se non sapete qual è la parte facile, provatelo. Se lo sapete già, lasciate le ginocchia a terra della parte dove è più facile ruotare. Ok. Quando avete deciso qual è la più facile, la stessa, meglio ancora, e ritornate un attimo con le gambe piegate, che devo spiegarvi una cosa. Quando siete con le gambe piegate, tenete i piedi larghi come il bacino. Perché? Perché biomeccanicamente, adesso, visto che tutte e due più facilmente ruotate a destra, con le gambe piegate muovete tutte e due le ginocchia verso destra e se tenete i piedi larghi come il bacino vi accorgerete che il ginocchio sinistro va a appoggiarsi a terra sotto la pianta del piede destro. Ok? Attenzione che a volte le persone quando devono vedere quanto è largo il bacino fanno così perché pensano che il bacino qua, il bacino è qua, quindi è più largo. Okay. Sì, tu perché pensi perché le persone lei pensano all'interno che sì, sì, eccetera sì. E allora va a finire che il ginocchio va sopra il piede. Allora, così è troppo. Mettete in modo che il ginocchio s'appoggi bene sotto la pianta. Perché? E cominciamo già col fare un ascolto. Provate a metterlo nel modo che non è quello che voglio io, che è quello che fa il 90% delle persone. Nel vostro caso, quando andate con il ginocchio a destra, il ginocchio sinistro, se lo fate come la fa la maggior parte, il ginocchio sinistro si appoggia sulla caviglia del piede sinistro. Ok? No, scusate, il ginocchio sinistro sulla caviglia del piede destro. Allora, staccate le mani un attimo e osservate cosa succede nel fianco sinistro, nella schiena, quando il ginocchio sinistro è sopra il piede destro e la gamba destra. Poi mettete il ginocchio sinistro in modo che si appoggia a terra sotto la pianta del piede destro. Notate qualche differenza o non tanta? L'appoggio del gluteo ferro. Mai. Ok, a parte che l'appoggio del gluteo non c'è in tutti, certe persone poi non vanno giù. Lo vedrete, mica tutti hanno l'articolazione fa molto mobile. Quindi certo stanno proprio su col gluteo sinistro anche quando è lì. Però di fatto, appunto, di fatto quando siete col piede, col ginocchio sinistro sul piede destro, si accorcia tutto l'altro sinistro, sì. Quindi non c'è la possibilità di muoversi bene. Quando invece il ginocchio sinistro è appoggiato, sì, si ha un dritto, giusto? Perfetto. Adesso rimanete in quella posizione, appoggiate la mano destra per terra accanto a voi, in modo che sia comodo, sollevate il braccio sinistro e lo piegate davanti a voi, quindi davanti a voi c'è l'avambraccio con la mano penzola, non allineata ma morbida, e guardando con gli occhi l'avambraccio girate occhi, braccio e tronco verso destra. E tornate senza andare al massimo. Sì, continuate osservando come lo fate e cosa muovete. Sempre attenzione a tutto il corpo. Intanto cominciate a osservare se state respirando, come tenete la bocca, e quando avete bisogno di fermarvi, vi fermate. Ok, fermatevi un attimo, molto spesso le persone hanno le braccia che si stancano, quindi date pause molto spesso, continuando a far muovere, Ma muovere pausa, non tantissimo movimento, qua nella pausa non da conviene sia per il sistema nervoso che muscolare fare il movimento. Ok, adesso risollevate lo stesso braccio e fate sempre lo stesso movimento, mano destra a terra accanto a voi, ginocchia verso destra, ginocchio sinistro sotto la pianta del piede destro, guardando verso l'avambraccio e la mano sinistra, girate ancora a destra e ritorno, ma questa volta lo fate con gli occhi chiusi. E quando siete arrivati a destra, aprite gli occhi e vedete se avete girato di più, uguale o di meno. Poi chiudete e ritornate. E ogni volta lo fate con gli occhi chiusi e li aprite sulla destra per vedere se avete ruotato di più, uguale o di meno. Quindi vengono coinvolti anche gli occhi, che di per sé gli occhi sono quelli che bloccano o ammorbidiscono il collo. Giusto? Ok. Continuate a farlo. Con gli occhi chiusi. Con gli occhi chiusi, questa volta, e poi la prossima volta lo fate con gli occhi aperti e vedete se c'è qualche cambiamento. Prendetevi più o meno un punto di riferimento in modo da poter vedere e paragonare le varie volte. Ok, con gli occhi chiusi si gira di più. Anche tu giri qui. Non ho forzato, quindi non prende tanto. No, in genere succede che con gli occhi chiusi, essendo chiuso il collo è più libero e quindi è andato a ruotare un po' di più. In genere. Oh, però poi però. Beh, certo. No, ma sì. Sì. No, perché quello che chiuso io mi sento più morbida. Infatti questo succede. Adesso risollevate la mano sinistra, sempre nella stessa posizione, vi girate verso destra e rimanete ferma a destra. Occhi chiusi. No, normali. Ok. E adesso rimanendo fermo a destra, girate verso sinistra, quindi verso avanti, solo la testa e ritorno. Quindi tutto il corpo sta fermo e solo il collo e la testa che si girano. Senza dormire. E vedete cosa dopo, dopodiché rifate il movimento test. Quindi fatelo. Quindi anche guardate. Sì, occhi aperti, vi girate verso destra, osservate un girate e poi vi fermate un po'. Quando avete bisogno di sdraiarvi, lo fate. Io vi faccio stare sedute e scegliete voi quando sdraiarvi, perché già voi siete, sapete come ascoltarvi. Alle persone spesso dopo una o due sequenze fate andare giù, giù, su e giù, in modo che per la sicurezza. Sì, sì, ma anche proprio che lasciano andare, perché certi possono dirigirsi molto a fare questo, cioè non sappiamo. Bene, adesso ruotate verso destra, rimanete ruotate a destra e girate verso sinistra solo gli occhi, quindi tutto il corpo sta girato, no, però non sinistra su. Tutto il corpo sta ruotato verso destra, solo gli occhi girano a sinistra e poi tornano. E osservate se continuate a respirare e osservate come finisce la bocca. E adesso un'altra volta ruotate verso destra con tutto il corpo e vedete come arrivate. e ritorna. Sempre un po' di più. Dore. E adesso di nuovo sollevate il braccio sinistro, ruotate ancora verso destra, rimanete ferme, ruotate a destra e lentamente state ferme con la testa a destra, ma ruotate il torace e il braccio insieme verso sinistra e ritorno. Quindi testa a destra, no, a sinistra. Testa destra, ma in pratica la colonna vertebrale, sì, però non di più il braccio sa dov'è e viene trascinato dal movimento del torace che ruota a sinistra e torna. Ok, e continuate. Piano, piano, piano, respirando ed osservando fin dove arriva questo movimento. Come viene coinvolto il resto del corpo. Molto, molto lentamente. Ok. E adesso, altre due volte, sollevate il braccio sinistro davanti a voi, girate a destra, vedete quanto girate rispetto all'inizio. Benissimo. E sdraiati un attimo. E adesso andrei. È molto significativa questa lezione, molto. Fa vedere molto il tipo di lavoro che c'è dietro. Direi ancora di più dell'orologio pelvico. E man mano che vi sdraiate, oltre a dare riposo al sistema nervoso e muscoli, osservate se man mano cominciano ad esserci cambiamenti. Sulla poggi, Lella? Sì. Non è detto che ci siano subito, eh? O può darsi anche che non ci siano, perché magari siete già organizzati bene, però osservate nelle persone in genere che non hanno mai fatto niente, succede. Bene, adesso rotolate sul fianco, fate sempre rotolare sul fianco le persone, evitate che vengano su dritte, che fanno uno sforzo col collo e con l'addome per niente. Quindi arrotolate sul fianco, così si abituano da quando anche sono bloccate con la schiena, e girate sempre le ginocchia verso destra, come prima. Ok? E adesso mettete entrambe le mani appoggiate a destra. E tenendo entrambe le mani appoggiate a destra, andate con la parte sinistra del bacino in su e in giù, in modo da far sentire come passa il movimento e farlo arrivare fino alla testa. Quindi la testa, come prima, continua il movimento di girarsi verso destra, partendo, facendo partire il movimento dell'anca sinistra. E potete sbizzarrirvi e farlo in tre modi. Potete far cominciare il movimento dall'anca sinistra, che pian piano fa girare tutto fino alla testa. Potete provare cominciando il movimento dalla testa, che man mano che gira tira tutto e fa sollevare l'anca sinistra. E potete anche muovere anca e testa insieme e vedere come passa il movimento. Quindi sbizzarritevi, per esempio, se avete una persona molto bloccata col collo, conviene farlo cominciare dal basso. Se avete una persona molto bloccata con la parte lombare, cominciate col fare muovere il collo. Okay. È lo stesso movimento, se una è un palo, lo fate muovere alto e basso insieme. Non so se... Sì, sì. E continuate. E osservate cosa sta cambiando ancora di più rispetto a prima. C'è anche un lato, un coso preferenziale, un canale preferenziale, giusto? In che senso? O la testa, il bacino? Sì, certo. Cioè, in ognuno c'è un modo nel quale viene più naturale e fa seguire tutto il resto. E respirate. E osservate come sente la bocca. E come tenete i piedi. Piede sinistro. Se morbido appoggiato, comodo. Ok, adesso vi fermate e di nuovo sollevate il braccio sinistro davanti a voi e vi girate verso destra, osservando fin dove riuscite a girare. Ricordatevi quando fate la lezione con le persone di far scegliere fin dall'inizio un punto fisso, in modo da vedere com'è la torsione rispetto a questo dato oggettivo. Ok, adesso sempre con le ginocchia girate verso destra e il ginocchio sinistro sotto la pianta del piede destro, mettete la mano sinistra sopra la testa, sopra il papo, il palmo è appoggiato. La mano destra è per terra accanto a voi a destra e lentamente, senza farvi male ascoltandovi, inclinate la testa a destra e a sinistra. È la mano che sposta la testa o siamo la testa che sposta la mano? Nessuno delle due. Infatti voglio vedere cosa mi dite e cosa sentite. Poi vi dico come portare l'attenzione. Come conviene farlo secondo voi? Facendolo partire dal bacino, dalla schiena. Fuochino. Mi aiuto con la flessione del tronco. Ok, detto così infatti è meglio. Nel senso che se voi siete ben organizzate, quindi quando vi dico mettete la mano sopra la testa, non muovete solo il collo e il braccio, ma le persone, il pubblico popolare, come dicono negli States, inclina, se voi mettete solo la mano, inclina solo la testa e stira il collo e si fa male. Certo. Allora, l'ideale è dire alle persone mettete la mano destra sopra la testa e pian piano, lentamente, aiutate col movimento di tutto il corpo a descrivere una C da una parte e dall'altra con la colonna vertebrale. E poi, man mano, si porta l'attenzione e quando la testa si inclina a sinistra, l'anca sinistra si solleva. Quando la testa si inclina a destra, l'anca sinistra si abbassa, ok? Perché il problema è che la maggior parte delle persone tiene rigido e tira la testa e il collo e si fa del male, invece fa un movimento che invece aiuta a liberare tutto quanto il corpo. Bambini inclusi, non detto che bambini lo facciano, ci sono talmente bloccati che non c'è più niente di movimento naturale, anzi non li sanno. E continuate pian piano. Quindi, come sta la mano sulla testa, in un certo senso è leggermente appoggiata, non pesa, non è che tirate schiacciata sulla testa, quindi il collo è libero, la mano è appoggiata e diventa solo il pretesto, come vedrete quando provate le altre lezioni che ho registrato, c'è una lezione seduta che è molto bella, nella quale c'è questo lavoro di inclinazione, ma la mano sta appoggiata morbida, non è che preme per tirare, sta appoggiata morbida e vi fa inclinare. Perché si mette la mano? Visto che si può fare anche senza, perché si muove molto di più tutto il tronco. Ok, e adesso di nuovo sollevate la mano sinistra davanti a voi e provate a girare a destra. E ritorno e osservate come viene. Sento un po' di più, sì. Anche lo sguardo è più libero. Ok, distraiate, supine, facciamo su un attimo. Osservate come l'appoggio della parte destra e della parte sinistra E poi lentamente rotolate su un fianco e arrivate sedute, magari sempre sullo stesso di prima, un secondo. Allora, cosa pratica? Questa lezione adesso più o meno mezz'ora, 26 minuti. Di per sé questa sequenza completa così. Poi, volendo, e voi vedrete, si possono aggiungere cose di anche un'altra sequenza che vi aiuta a girarvi ancora di più, però per i bambini e gli adulti le prime volte potete fare solo fin qua. Se volete aggiungere, potete sempre girare le ginocchia verso destra, appoggiare la mano destra e l'avambraccio destro per terra accanto a voi a destra, e lentamente infilare il braccio sinistro nel buco tra il braccio destro e il corpo, quindi aumentate ancora di più la torsione e tornate. Non pesa sulla spalla Lella questo lavoro qui? Quale spalla, destra? Sì. No, se non devi, cioè basta che lo fai due o tre volte, forse ti pesa se non metti il gomito sotto la perpendicolare che scende dalla spalla. Ricordatevi che un altro dei principi Feldenkrais è usare, lui era un fisico di base, quindi lui le cose biomeccaniche le guardava molto, di distribuire bene il peso, perché se tu sei messa là così, certo che ti dà fastidio. Se hai invece il gomito sotto la perpendicolare che scende dalla spalla destra, una persona ti si può anche sedere sulla spalla. E continuate a ruotare e ritorno, e penso che vi accorgerete che c'è ancora maggior torsione, giusto? Sì, sì. Senza sforzare il braccio, sempre senza sforzare. Mai, mai, mai forzare, anche fosse un movimento di 5 mm va bene. E poi potete anche aggiungere un altro, rimanere col braccio sinistro sotto il buco formato dal braccio destro e in quella posizione fare lo stesso movimento che abbiamo fatto prima, di andare con l'anca sinistra in su e in giù, in torsione. Quindi il braccio sinistro rimane sotto il buco formato dal braccio destro e l'anca sinistra e il bacino vanno in su e in giù. Attenzione che la testa ruota a destra. Sì. Quindi la testa segue il movimento a spirale della schiena. Molto bello questo anche per la mobilità del bacino. Infatti. Poi ritornate sedute con la mano destra appoggiata e potete, se volete le persone, far ritrovare il movimento di piegare il braccio destro davanti a sé e a ruota a destra e vedere quanto vuoi. Giri tutta. Infatti. Ok, adesso prima di cominciare dall'altro lato, se avete bisogno di riposo, vi riposate, altrimenti osserviamo come muovere le gambe destra e sinistra, perché le persone possono imparare a liberare al meglio il bacino girando le gambe a destra e a sinistra. Allora, continuate a fare semplicemente il movimento di girare le gambe di qua e di là. I piedi stanno fermi, appoggiati, passano dal bordo interno al bordo esterno, le ginocchia vanno una volta tutte e due a destra e una volta tutte e due a sinistra. Se c'è qualcosa nella mia spiegazione che pensate quando lo rifate non vi viene, lo dite? Ma dopo ci dai i passaggi, ce li scriviamo? No, non li scrivi, ti do la registrazione. Ah, perché io avrei anche il tablet volendo, se tu ci dai il permesso, Lella, per eventualmente fare la ripresa del movimento. Prendilo? Ah, beh, se vuoi sì. Anzi, lo passi anche a me. E serve anche a me avere. Allora adesso lo facciamo da questa parte, lo facciamo con quello. Ok? Ti va bene? Sì. Vuoi che riprenda tutta l'ora? Se riusciamo, magari a step sì, passaggi. I passaggi. Sì, perché non so se ci sta tutto. Sì, magari io ho 32 giga. Magari sai cosa? Rimuoviamo poi un movimento per una volta ogni. Sì, e dopo riscarichiamo in chiavetta. Tanto anche se tu interrompi un attimo il video, continua, cioè a meno che non lo chiudi completamente, ma sì, fai pausa, pausa. Sì. Ok, me lo dico come si fa, mettiamo sopra. Sì, dopo lo scarichiamo in una chiavetta e te lo giriamo. Proviamo. Ok. Subito. Allora, subito. Aspetta un attimo. Sì. La chiavetta. Sì. Ok. Come si fa qua? Però, non posso stare.